attraversasse il mondo vent'anni dopo di te. Le mani in tasca sullo stesso sfondo, io mi domanderei se coglierebbe in questa stessa brina che ogni febbraio copre la città, nei viali gelidi della mattina, alle fermate del tram, un tuo respiro che è rimasto indietro e si confonde ancora con la nebbia, il tuo riflesso ancora appeso a un vetro, un tuo pensiero ancora chiuso in gabbia. Chissà se sentirebbe il tuo passaggio in questa musica che gira intorno, in questo anelito di coraggio che sfida il cielo quanto è lungo il giorno. E se davvero sei passato altrove, e se la pioggia ti ha lavato via, o ti racconti già in parole nuove d'inconfondibile calligrafia. E se davvero ha un senso poi il dolore, o il mondo macina così ogni figlio, per poi sputarlo via senza rumore, lasciarlo indietro senza batter ciglio. Se il mondo nudo senza di te, la vita in tasca sullo stesso sfondo, a domandarsi perché. Col cuore in panne, i sogni sfuggenti di quella tenera età, con una fionda in lotta coi giganti, la solitudine è necessità. Si chiederebbe come ci è finita quella dolcezza che rimane ancora e rifiorisce ogni giorno alla vita nelle pieghe chiare dell'aurora. Mani in tasca, un tuo respiro, che si confonde il tuo sorriso, a domandarsi